Eravamo, Albertine e io, a Balbec, davanti alla stazione del trenino locale. A causa del maltempo, ci eravamo fatti accompagnare dalla vettura dell'albergo. Non lontano da noi c'era il signor Nissim Bernard, che aveva un occhio pesto. Da poco tempo tradiva il giovane coreuta di Atali con il garzone d'una fattoria abbastanza avviata dei dintorni, o Cerisier. Era un ragazzo rosso, dai tratti ruvidi, che dava assolutamente l'impressione di avere come testa un pomodoro. Un pomodoro affatto identico serviva da testa a suo fratello gemello. Agli occhi dell'osservatore disinteressato, queste rassomiglianze perfette tra gemelli hanno una loro bellezza. È come se la natura, momentaneamente industrializzata, si fosse messa a sfornare prodotti in serie. Malauguratamente, il punto di vista di Nissim Bernard era un altro e la rassomiglianza in questione era soltanto esteriore. Il pomodoro numero due si dedicava in modo esclusivo e frenetico a deliziare le signore. Il pomodoro numero uno non disdegnava di accondiscendere ai gusti di certi signori. Ora, ogni volta che il signor Bernard, scosso come da un riflesso istintivo, dal ricordo delle ore piacevoli passate col pomodoro numero uno, si presentava ai Cerisier, miope com'era, e d'altronde non era necessario essere miopi per confonderli, il vecchio israelita, interpretando senza volerlo la parte di anfitrione, si rivolgeva al fratello gemello e gli chiedeva: «Vuoi che ci vediamo stasera?» La risposta immediata era una scarica di pugni. L'incidente si ripeté persino nel corso d'un medesimo pasto, quando gli capitò di continuare col secondo un discorso iniziato col primo. Alla lunga gliene venne un tale disgusto per associazione di idee verso i pomodori, compresi quelli commestibili, che se al Grand Hotel sentiva al tavolo accanto un cliente di passaggio ordinarne una porzione, gli sussurrava: «Vogliate scusarmi, signore, se mi rivolgo a voi senza conoscervi, ma ho sentito che ordinavate dei pomodori. Sono marci quest'oggi. No, ve lo dico nel vostro interesse, perché per me è del tutto indifferente. Non ne prendo mai». Lo straniero ringraziava con effusione quel vicino filantropo e disinteressato e richiamava il cameriere, fingeva d'aver cambiato idea. «No, decisamente niente pomodori». E me, che conosceva la scena, ne rideva tra sé e sé, pensando: «Che vecchia volpe il signor Bernard, è riuscito un'altra volta a far disdire l'ordinazione». Aspettando il tram, che era in ritardo, il signor Bernard non teneva affatto a salutarci, Albertine e me, a causa dell'occhio pesto. Ancora meno tenevamo noi a parlargli. La cosa, tuttavia, sarebbe stata quasi inevitabile se proprio in quel momento una bicicletta non fosse piombata su di noi a tutta velocità. Ne saltò giù il lift, completamente senza fiato. Quando eravamo appena usciti, aveva telefonato Madame Verdurin invitandomi a pranzo per due giorni dopo. Si vedrà presto perché. Forniti i dettagli della telefonata, il lift ci lasciò e, nello stile degli impiegati democratici che affettano l'indipendenza nei confronti dei borghesi e fra di loro ristabiliscono il principio d'autorità, volendo dire che il portiere e il caporimessa avrebbero potuto seccarsi se faceva tardi, aggiunse: «Filo per via dei miei capi». Le amiche di Albertine se n'erano andate per qualche tempo. Era mia intenzione distrarla, anche supponendola felice di passare i pomeriggi, lei e io soli, a Balbec. Sapevo che la felicità non si lascia mai possedere sino in fondo e che Albertine, avendo ancora l'età, da cui certuni non escono mai, nella quale non si è scoperto che questa imperfezione riguarda chi riceve la felicità e non chi la dona, sarebbe stata tentata, forse, di attribuire a me l'origine della sua delusione. Preferivo che la imputasse alle circostanze, da me predisposte, che non ci avrebbero consentito di restare noi due soli, impedendole al tempo stesso di rimanere al casinò e sulla diga senza di me. Così quel giorno le avevo chiesto di accompagnarmi ad Ancier, dove avrei fatto visita a Saint-Loup. Con lo stesso scopo di darle un'occupazione, le consigliavo la pittura, che un tempo aveva studiata. Lavorando, Non si sarebbe chiesta se era felice o infelice. L'avrei anche portata volentieri, di tanto in tanto, a pranzo dai Verdurin e dai Cambremè, che sicuramente avrebbero ricevuto di buon grado gli uni e gli altri un'amica presentata da me. Ma dovevo accertarmi prima che Madame Putbus non fosse ancora alla Raspellière. Solo sul posto, praticamente, avrei potuto rendermene conto. E poiché sapevo da tempo che due giorni dopo Albertine sarebbe stata costretta a recarsi nei dintorni con sua zia, ne avevo approfittato per telegrafare a Madame Verdurin chiedendole se poteva ricevermi mercoledì. Se ci fosse stata Madame Putbus, avrei fatto in modo di incontrare la sua cameriera, scoprire se c'era rischio che venisse a Balbec e, nel caso, sapere quando, per poter quel giorno portare via Albertine. Il trenino locale, aggiungendo un nuovo svolazzo al giro che faceva quando l'avevo preso con la nonna, passava adesso per Doncières-la-Goupille, una grande stazione dalla quale partivano treni importanti, e in particolare l'espresso col quale da Parigi ero andato a trovare Saint-Loup ed ero poi tornato. A causa del maltempo, fu la vettura del Gran Hotel a condurci, Albertine e me, alla stazione del trenino, a Balbec Plage. Il piccolo tram non c'era ancora, ma si vedeva, pigro e lento, il pennacchio di fumo che aveva lasciato lungo il percorso e che adesso, ridotto ai suoi soli mezzi di nuvola poco mobile, s'arrampicava adagio sui pendii verdi della scogliera di Criquetot. Finalmente il trenino, che la nuvola aveva preceduto per prendere una direzione verticale, arrivò a sua volta lemme lemme. I viaggiatori che dovevano salirci si scostarono per fargli posto, ma senza affrettarsi, conoscendo la sua andatura bonaria, quasi umana, e sapendo che, guidato come la bicicletta d'un principiante dai segnali compiacenti del capostazione, sotto la possente tutela del macchinista, non rischiava di investire nessuno e si sarebbe fermato dove si fosse voluto. Il mio telegramma spiegava la telefonata dei Verdurin ed era stato tanto più tempestivo in quanto ogni mercoledì, due giorni dopo era appunto mercoledì, si celebravano alla Raspellier, come a Parigi, i grandi pranzi di Madame Verdurin, cosa che io ignoravo. La padrona non dava dei pranzi, ma aveva dei mercoledì. I suoi mercoledì erano opere d'arte. Pur sapendo che altrove non avevano uguali, Madame Verdurin introduceva fra l'uno e l'altro sottili distinzioni. «Quest'ultimo mercoledì non era all'altezza del precedente», osservava, «ma credo che il prossimo sarà in assoluto uno dei più riusciti». A volte giungeva sino a confessare: «Questo mercoledì non era degno degli altri, in compenso in serbo una grossa sorpresa per il prossimo». Nelle ultime settimane della stagione parigina, prima di partire per la campagna, la padrona annunciava la fine dei mercoledì. Era un'occasione per stimolare i fedeli. «Non restano che tre mercoledì», diceva. «Non ne restano che due», con il tono di chi parla dell'imminente fine del mondo. «Non mancherete mercoledì prossimo per la chiusura». Ma era una chiusura fittizia, poiché avvertiva: «Ufficialmente adesso non ci sono più mercoledì. Per quest'anno era l'ultimo, ma io, il mercoledì, continuerò ad esserci. Faremo mercoledì fra di noi. Chissà, forse questi piccoli mercoledì intimi saranno i più piacevoli». Alla Raspellière i mercoledì erano per forza di cose ristretti e, siccome incontrando un amico di passaggio lo si invitava per questa o quella sera, quasi ogni giorno era mercoledì. «Non ricordo bene i nomi degli invitati, ma so che c'è la signora Marchesa di Camembert», mi aveva detto il lift. Il ricordo delle nostre spiegazioni concernenti i Cambremer non era riuscito a soppiantare definitivamente quello della vecchia parola, le cui sillabe familiari e piene di senso, soccorrendo il giovane impiegato quando si trovava in imbarazzo davanti a quel nome difficile, venivano da lui immediatamente preferite e riadottate. non pigramente e come un'antica e non sradicabile consuetudine, bensì a causa del bisogno di logica e di chiarezza che esse soddisfacevano. Ci affrettammo per cercare uno scompartimento vuoto dove mi fosse possibile baciare Albertine durante l'intero tragitto. Non avendone trovati, salimmo in uno dove era già installata una signora con un faccione enorme, brutto e vecchio, e un'espressione mascolina, tutta vestita a festa, che leggeva la Revue de Dumont. A dispetto della sua volgarità, era pretenziosa nei gesti e mi divertii a chiedermi a quale categoria sociale potesse appartenere. Conclusi immediatamente che doveva essere la tenutaria di qualche grande bordello, una mezzana in vacanza. Il suo volto, i suoi modi, lo proclamavano a gran voce. Soltanto non avevo mai saputo prima d'allora che quelle signore leggessero la Revue de Dumont. Albertine me la indicò, non senza strizzare l'occhio e sorridere. La signora aveva un'aria di estrema dignità e poiché, dal canto mio, portavo in me la consapevolezza d'essere invitato per l'indomani al capolinea del trenino a casa della celebre Madame Verdurin, d'essere atteso a una stazione intermedia da Robert de Saint-Loup e perfettamente in grado, non appena lo volessi, di far felice Madame de Cambremer accettando poco oltre la sua ospitalità a Féterne, i miei occhi scintillavano d'ironia nel considerare quell'imponente signora la quale, con il suo abbigliamento ricercato, le piume sul cappello e la Revue de Dumont, aveva l'aria di credersi un personaggio più importante di me. Speravo che non rimanesse molto più a lungo del signor Nissim Bernard e che scendesse al più tardi a Toutainville. Invece no. Il treno si fermò a Aigreville e lei non si mosse. Lo stesso Montmartin-sur-Mer, a Parville, a Bingard, a Ancarville, e così, per disperazione, quando il treno lasciò Saint-Frichou, che era l'ultima stazione prima di Donciat, cominciai ad abbracciare Albertine senza far caso alla signora. A Donciat, Saint-Loup era venuto ad aspettarmi alla stazione. Con estrema difficoltà, mi disse, perché a casa di sua zia, dove abitava, il mio telegramma gli era arrivato all'ultimo momento e così, non avendo sistemato per tempo i suoi impegni, non avrebbe potuto dedicarmi che un'ora. Ma quell'ora mi parve, ahimè, fin troppo lunga, giacché, appena scesi dal treno, Albertine non prestò più attenzione che a Saint-Loup. Con me non parlava. Mi rispondeva a stento se le dicevo qualcosa, mi respinse quando mi avvicinai. Con Robert, in compenso, rideva del suo riso tentatore, gli parlava con loquacità, giocava col suo cane e faceva apposta, mentre stuzzicava l'animale, a sfiorare il padrone. Ricordai che, quando Albertine s'era lasciata baciare da me per la prima volta, avevo rivolto un sorriso di riconoscenza all'ignoto seduttore che, producendo in lei un mutamento così profondo, mi aveva a tal punto semplificato le cose. Adesso pensavo a lui con orrore. Robert doveva essersi reso conto che Albertine non mi era indifferente perché non rispose alle sue provocazioni, il che la mise di malumore nei miei confronti. Poi si rivolse a me come se fossi stato solo, facendomi risalire quando lei se ne avvide nella stima della mia amica. Robert mi chiese se non volessi cercare di rivedere fra gli amici con i quali lui e io pranzavamo ogni sera durante il mio soggiorno quelli che erano ancora a Donciat. E siccome indulgeva egli stesso al tipo di fastidiosa affettazione che biasimava, a cosa ti serve averli irretiti con tanta perseveranza nel tuo fascino se poi non li vuoi rivedere? Declinai la sua proposta, non volendo rischiare di separarmi da Albertine, ma anche perché ormai mi sentivo lontano da loro. Da loro vale a dire da me. Desideriamo appassionatamente l'esistenza di un'altra vita, in cui essere uguali a quelli che siamo quaggiù. Ma non riflettiamo che, senza bisogno d'aspettare un'altra vita, in questa stessa, dopo qualche anno, siamo infedeli a ciò che siamo stati, a ciò che volevamo restare per l'eternità. Anche a supporre che la morte non ci modifichi più dei cambiamenti che si producono nel corso della vita, se dovessimo in quest'altra vita incontrare la persona che siamo stati, volteremo le spalle a noi stessi, come a certuni cui siamo stati legati, ma che non vediamo più da molto tempo. Per esempio, quegli amici di Saint-Loup, che ero così felice di incontrare ogni sera al Faisan Doré, e la cui conversazione non mi avrebbe causato ora che imbarazzo e fastidio. Da questo punto di vista, e dal momento che preferivo non andare a ritrovarci quel che m'era piaciuto, una passeggiata per Dancia avrebbe potuto darmi l'impressione di prefigurare l'arrivo in paradiso. Si sogna molto il paradiso, o meglio, più paradisi successivi, ma sono tutti, molto prima che si muoia, paradisi perduti, e nei quali ci sentiremmo perduti.